Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente potete ascoltarci anche via web, scaricando dal nostro sito che si chiama Radio Città Fujiko senza accento naturalmente.it l'apposita app che vi permetterà di ascoltare Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che sta per partire in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club, appunto, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. E oggi giornata particolare, inutile che ve lo stia a ripetere, lo sapete benissimo, è la giornata dedicata alle donne. Diciamo che è una cosa che mi lascia molto perplesso, nel senso che dedicare una giornata alle donne mi sembra veramente una cosa che non ha alcun senso. Per quel che mi riguarda è sempre la giornata delle donne, ma questo è un discorso personale. E però, siccome la fantasia non è il mio forte, anch'io mi adeguo, e in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo tutte ragazze che suonano, cantano alla grandissima. A darmi l'opportunità di questo è una ristampa, l'album si chiama Break Every Rule, rompi ogni regola. E titolare di questo album, che ebbe un successo strepitoso nel 1986 quando fu pubblicato, è Miss Tina Turner. Molti di voi la conosceranno, anzi spero tutti la conosceranno. È stata una grande, è tuttora una grande cantante, anche se si è ritirata in Svizzera insieme al suo ultimo marito. Non so il numero esatto dei mariti che ha avuto e non mi interessa. Diciamo però che, per chi non lo sapesse, il suo vero nome è Anna May Bullock, viene da Brownsville nel Tennessee, e nel 1957 conobbe Ike Turner, che gli cambiò il nome in Tina, e poi da lì è diventata Tina Turner. È sempre stata una, molti di voi lo sapranno, ma lo ripeto, è stata sempre stata una accoppiata molto litigiosa, molti problemi anche litigi fisici che hanno portato all'abbandono di Tina Turner, ad abbandonare il marito nel 1976. Peccato che abbandonò il marito senza un soldo in tasca, con grossi problemi, perché furono annullati naturalmente tutti gli spettacoli che avevano avanti praticamente per un anno, e quindi lei dovette rimboccarsi le maniche, cantare e suonare praticamente gratis per ridare i soldi a coloro che avevano investito in questi concerti che poi erano stati annullati. Questo album, che si chiama, lo ripeto, Break Every Rule, è stato ripubblicato nel novembre scorso in una versione magnifica. Sono diventati, da un long play in vinile che era, è diventato una versione in 3 CD più 2 DVD. L'ultimo CD e il primo DVD racchiudono un concerto che è stato registrato a Rio de Janeiro, al famoso stadio Maracanã, il 16 gennaio di quell'anno, del 1988 appunto. Mentre il secondo DVD è dedicato a un concerto registrato a Londra, ma questo è un altro discorso. Oggi noi ci focalizzeremo su questo di Rio de Janeiro, si chiama Tina Live in Rio 88 e contiene praticamente quasi tutti i suoi successi. Possiamo dividere la carriera di Tina Turner agevolmente in due parti, pre-86, pre-85 oserei dire, e post-85, perché in seguito all'abbandono, appunto alla divisione con Ike Turner, Tina ebbe dei grossi problemi perché appunto doveva rimborsare, ecco, non mi veniva prima il termine, i concerti mancati, ma si barcamenava fra un successo abbastanza limitato. Poi nell'85, in corrispondenza con la sua partecipazione come attrice a quel film che si chiama Mad Max, da lì esplose, è diventata famosissima, ci sono stati pezzi molto conosciuti, molto apprezzati, grandi concerti tipo appunto questo al Maracanã di Rio de Janeiro. E ci sono tanti brani conosciutissimi della seconda parte della carriera di Tina Turner, ma io voglio farvi ascoltare quello che è stato il più grande successo della prima parte, quando era ancora col marito Ike, che non è un brano né suo né di Ike, come era abbastanza usuale per il duo, facevano un sacco di covers. Questo ebbe un grande successo, è un brano di John Cameron Fogerty, per gli amici Creedence Clearwater Revival, si chiama Proud Mary. Proud Mary è il nome di un battello, quei tipici battelli che solcano il Mississippi, quelli con la ruota gigante dietro che gli dà il movimento, e a questo battello è dedicato questo brano. Infatti nel ritornello si sente tantissime volte rolling, perché appunto la ruota girava e appunto è dedicata a questa, a questo battello. Tina Turner dal vivo a Rio de Janeiro nell'88, la registrazione non era proprio perfetta, ma comunque dà la sensazione di quello che è il feeling di questa grande cantante, che come dicevo in precedenza si è ritirata in Svizzera a godersi la pensione. Andiamo subito quindi con una piccola, forzatamente piccola, rassegna femminile. Iniziamo, non posso non iniziare da quella che per me è stata la più grande. Si chiamava Janis Joplin, e veniva da Port Arthur nel Texas, ed è stata secondo me la più grande. Tutte le volte che apri bocca ti spezza il cuore, e non a caso il pezzo che ho scelto per voi parla di cuore. Prima però due cose: se vi capita, sulle tante piattaforme che ci sono in giro, andate a cercare un film che si chiama Express Tour. È un film che racchiude la racconta la storia di un treno che ha attraversato il Canada pieno di musicisti, hanno fatto 5-6 concerti in Canada e si muovevano in treno tutti insieme con jams informali. Veramente un gran bel film, Express Tour, ve lo raccomando caldamente. Come vi raccomando caldamente questa sera alle 18 alla libreria Feltrinelli, quella sotto le due torri per intenderci, il nostro grande collega, grande in tutti i sensi, collega William Piana, presenterà un libro di Barbara Baraldi. Il libro si chiama Il fuoco dentro, Janis Joplin il romanzo. È un libro consigliatissimo e naturalmente non mancate, lo ripeto, ore 18, libreria Feltrinelli. William Piana presenterà questo Il fuoco dentro. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Janis Joplin, Piece of My Heart. A good woman possibly can. Well, each time I tell myself that I can't see the pain, when you hold me in your arms, I sing it once again. Say, come on, come on, come on, come on. You take it, take another little piece of my heart now, baby. Break it, break another little piece of my heart. On the streets, you're looking good, honey. Deep down inside, I know you know it ain't never been right. Never, never, never, never, never, never, never, never heal me right now. But each time I tell myself that I can't stand the pain, you hold me in your arms, and I sing it once again. Say, come on. You know. me. I want you to kiss me. Viene dalla Gran Bretagna, si chiama John Shaw Taylor, è questo album molto bello, si chiama Blues from the Heart Live, ve lo proposi a suo tempo, oramai diversi mesi fa, come novità della trasmissione all'epoca. È un album molto bello che racchiude anche alcuni brani con Joe Bonamassa, che produce anche questo album. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Keep on Loving Me, John Shaw Taylor. My dream. Naturalmente non poteva mancare Miss Patti Smith, grande, più che grande cantante, oserei dire grande personaggio, una di quelle che ha fatto veramente la storia della musica americana degli ultimi anni e che è tuttora in concerto spesso anche qua in Italia. Il pezzo che ci siamo ascoltati arriva da un concerto benefico che si tiene praticamente ogni anno a New York, specificatamente a Randall Island, per raccogliere fondi per il Tibetan Freedom Act, cioè un'associazione che si occupa di Tibet libero. Sappiamo tutti il problema del Tibet, che non staremo a parlare visto anche che non è la sede, e questa registrazione risale a luglio del 1997. Per quel che mi riguarda, la situazione musicale femminile italiana è molto molto tragica. Ci sono tantissime cantanti, ma molte di queste, quasi tutte, fanno una musica che non rientra nei miei parametri. Ce ne sono poche, citerò una che si chiama Ginevra Di Marco, E poi vi farò ascoltare un'altra invece che si chiama Francesca De Fazi. Viene da Roma, ma lei ha girato un po' tutto il mondo, sempre suonando la chitarra, sempre facendo del gran blues, e ha registrato al Big Mama questo ottimo album che si chiama Blues Duets, e che racchiude fra l'altro questo brano che lei ha scritto in prima persona, Francesca De Fazi, e il brano si chiama Flower in the Stain. Wanted or not, I'm in your possession. Oh, I've tried. any way I can to get your attention. You're my one and only taboo, okay? You're my latest fashion. You're an institution of cool. Oh, no doubt about it. I'm jack of obsession. Make me wanna want you. Make me wanna care. Make me wanna need you. Almost night and day. I've got a confession to make, and I'm letting you know. If I ever get my hands on you, baby, I'll never let you go. You're my second nights of flavor. Oh, you're my latest fashion. You're an institution of cool. No doubt about it. Never gonna end. All these sudden feelings for you, I need to comprehend. I don't wanna let you go. I don't ever wanna leave. Oh, you are know you're preaching, yeah. That's what I believe. You're my seven nights of flavor. Oh, you're my latest fashion. You're an institution of cool. No doubt about it. A part of me that's longing you to be here with me. I don't know what is really happening to me. I really want you to be mine. Baby, when time comes, oh baby, when the time is right. Viene da Belgrado, dalla Serbia, Ana Popovic, anche se oramai da diversi anni vive stabilmente negli Stati Uniti, dove ha un ottimo successo con il suo blues e con la sua splendida chitarra. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama Object of Obsession, è tratto dal terzo album live della discografia di Ana Popovic, che è oramai da tanti anni sulle scene, e questo in particolare è stato registrato in una città francese che, se pronuncio bene, si chiama Yosdun, ma non sono assolutamente sicuro della pronuncia. Era il 2 novembre del 2019, Ana Popovic. Viene dal New Jersey invece Dana Fuchs, una grande grande cantante e anche ottima attrice, visto che ha interpretato in un musical off Broadway la figura di Janis Joplin, e già vi dice qualcosa su quella che può essere la sua voce, e ha partecipato anche a quel film sui Beatles che si chiama Across, non sui Beatles, ispirato ai Beatles, che si chiama Across the Universe. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a New York City, che è la sua città in cui vive, anche se, come dicevo, lei del New Jersey. Si chiama Songs from the Road, è una serie tedesca che di solito abbina un CD live con un DVD live, e questo appunto è quello dedicato ad Anna Fuchs, che è stato registrato a New York City nel marzo del 2014. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Set It On Fire, Anna Fuchs. This is called Set It On Fire. Can we rock and roll with you guys? All in love is fair. I turn to the feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Come and bring me some water. See my babies, and I'm a lover. I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Hey, she says out of control. Baby's got my heart, my baby's got my mind. But not that sweet devil's got my soul. Will this aching pass? Will this night be through? I wanna hear the breaking glass. I only feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity, that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Una veterana, Melissa Etheridge, essendo attiva dal 1985, ebbe qualche problema quando all'inizio degli anni 90 dichiarò pubblicamente la propria omosessualità, ma poi è diventata una paladina del movimento lesbico americano, non solo lesbico, LGBTQ con tutte le lettere che volete, ma come cantante è sempre stata sulla cresta dell'onda. È un singolo di qualche anno fa questo che ci siamo ascoltati, si chiama Your Little Secret, che è il brano in studio che apre questo singolo. A seguire tre brani dal vivo, fra cui questo che ci siamo ascoltati, che si chiama Bring Me Some Water. Lei era Melissa Etheridge. We'll be right back. Originariamente era un brano di Ann Peebles, questa I Can't Stand the Rain, ma Tina Turner l'ha fatta sua ed è diventata più famosa nella sua versione che in quella originale. Il tutto uno tratto dalla novità che vi propongo quest'oggi, Break Every Rule, la ristampa, dopo essere stato un long play, un singolo nel 1986, è stato ristampato invece nel novembre dello scorso anno in versione 3 CD e 2 DVD. Che fanno una bella figura. Il tutto, questo che ci siamo ascoltati, registrati al Maracanã di Rio de Janeiro, stadio famosissimo per quel che riguarda il calcio. Un piccolo parentesi prima, nel finire la prima parte della trasmissione, non ho detto naturalmente che quello che ci siamo ascoltati è solo un'infinitesima parte del mondo musicale, vocale e chitarristico e quant'altro femminile, e ho detto quant'altro, beh, odio dire quant'altro, vabbè, andiamo avanti. E comunque ci sono tantissime altre grandi cantanti, grandi musiciste, e non mancherà occasione naturalmente di ascoltarne altre. Perché? Perché adesso arriva Ricordi Today, la rubrica che è stata, che è sempre inserita nella seconda parte di Città Fujiko Live Club, che si preoccupa di farvi ascoltare i brani nella stessa giornata in cui sono stati registrati nel corso degli anni, e anche in questo caso sul finire avremo un paio di voci femminili. Ad iniziare invece erano tre baldi giovanotti, siamo nel 1966, tre grandi musicisti, Eric Clapton, chitarrista, Jack Bruce, bassista, cantante, armonicista, e Ginger Baker, batterista, si uniscono. Erano già famosi al loro tempo, tanto che la band venne chiamata la crema del blues inglese, appunto The Cream, grande band che durò naturalmente pochissimo, perché gli ego che erano in ballo erano veramente fortissime, ci furono un sacco di attriti, soprattutto fra Jack Bruce e Ginger Baker. Comunque ci sono state alcune riunioni estemporanee, una nel 1993 e l'altra nel 2005, e poi purtroppo, come sapete, sia Jack Bruce che Ginger Baker ci hanno lasciato, ed è rimasto solo Eric Clapton. Those Were the Days è un quadruplo cofanetto che racchiude tutto quello che ufficialmente hanno fatto i Cream, sia in studio che dal vivo, che poi erano quattro album, non di più, e durante la loro carriera. Dopo sono uscite altre cose, soprattutto dal vivo. E fra parentesi, ci sono alcune cose che hanno lo stesso brano, però in versione diversa. Infatti quello che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Train Time, su Whistle Fire è stato registrato al Fillmore West di San Francisco, mentre in questa versione, che è stata registrata naturalmente l'8 marzo, nel caso specifico nel 1968, è stata registrata al Winterland di San Francisco, che è un altro dei locali storici di quella città. Dicevo di Jack Bruce che, oltre ad essere un grande bassista e un grande cantante, era un valente, anzi ottimo, armonicista, come dimostra questa Train Time. Thank you. sono non luna mia. Questi erano i Cream, anche se in questo brano che si chiama Train Time il buon Eric Clapton probabilmente era andato a prendere un caffè per essere gentili, però Eric Clapton tornerà dopo in un'altra versione un po' particolare. Questi erano i Cream, appunto, l'8 marzo del 1968 in quel di San Francisco. Train Time, tratto da questo quadruplo cofanetto che si chiama Those Were the Days, che è consigliatissimo per chi non ha niente dei Cream, perché una volta acquistato questo praticamente avrete tutto quello che è uscito ufficialmente nel corso della loro breve carriera. King Biscuit Flower Hour è stata una trasmissione radiofonica americana che trasmetteva in tutta la nazione concerti una volta, all'inizio un paio di volte alla settimana, in seguito una volta alla settimana, e ha avuto un grande successo naturalmente, e ha forgiato centinaia se non migliaia di musicisti che sono venuti poi in seguito. Dico questo perché quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano tratto dalla serie King Biscuit Flower Hour, un numero dedicato a Bachman Turner Overdrive, una band che qui da noi non era molto conosciuta, ma che negli Stati Uniti e in Canada, da dove provenivano, erano veramente stellari come successo. Tre fratelli Bachman più J.T. Turner, che suonava il basso, si unirono appunto in questa band dopo che due dei tre fratelli Bachman insieme a Turner erano usciti dai Guess Who, che molti di voi ricorderanno per American Woman. Siamo a Chicago, 8 marzo 1974, il brano più famoso di Bachman Turner Overdrive è questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama You Ain't See Nothing Yet. Yeah. Randy Bachman, vocals and guitar, Tim Bachman, guitar, Robbie Bachman, drums e l'infiltrato C.F. Turner al basso. Erano i membri di questi Bachman Turner Overdrive che ebbero un successo siderale con questo brano You Ain't Seen Nothing Yet e il suo compare che si chiama Taking Care of Business, il tutto registrato l'8 marzo del 1974 in quel di Chicago. I think that any love is good love, so I took what I could get. E ci sono fenomeni particolari nel mondo musicale, citerò giusto per fare un esempio il caso dei Genesis, che divennero molto più famosi in Italia all'inizio della carriera, sto parlando quelli con Peter Gabriel e Stevie Hackett, divennero molto più famosi in Italia che in Gran Bretagna ai primi tempi. E poi ci sono altri che diventano famosi in un paese ben specifico, magari perché un DJ radiofonico trasmette spesso i suoi brani e vengono a piacere. Sto parlando in questo caso di una band che si chiamava Sound, che ebbero più successo in Olanda che in madrepatria, che è la Gran Bretagna. Tanto successo che la radio olandese li chiamò diverse volte, 5 per la precisione, per registrare dei concerti e naturalmente trasmetterli per radio. 5 di questi sono stati pubblicati, si chiamano The Dutch Radio Recordings e racchiudono registrazioni che sono state effettuate nell'81, nell'82, nell'83, nell'84 e nell'85. Quello che interessa a noi però di questa band che era capitanata da Adrian Borland, che suonava la chitarra e cantava, e che sono stati attivi dal 1979 al 1988, dicevo, quello che interessa a noi è il 1981, l'8 marzo. Erano in concerto in un locale storico di Amsterdam che si chiama Paradiso, una vecchia chiesa sconsacrata che da anni, decenni, è stato uno dei primi locali di questo genere al centro di Amsterdam, propone grandi concerti. 8 marzo 1981, loro si chiamano Sound, uno dei loro grandi classici invece si chiama Missiles.

Vi avevo promesso un Eric Clapton in versione un po' particolare e eccovi accontentati. Nel 1985 Eric Clapton insieme a Michael Kamen, che era un ottimo direttore d'orchestra contaminato dalla musica rock, ha fatto anche cose insieme a Metallica, insieme a David Gilmour. Dicevo, Eric Clapton e Michael Kamen scrissero la colonna sonora per una serie televisiva britannica che si chiamava Edge of the Darkness, come il brano che ci siamo ascoltati, da una registrazione effettuata alla Royal Albert Hall di Londra l'8 marzo del 1991. L'album che ci siamo ascoltati si chiama 24 Nights, perché in quell'occasione, fra il 90 e il 91, Eric Clapton fece parecchie serate alla Royal Albert Hall con diverse modalità. Iniziava con una band di quattro persone, di quattro musicisti, per qualche sera dopo invece con una band di nove persone, poi ancora una serie di serate con la blues band, e poi terminava con un paio di serate insieme alla National Philharmonic Orchestra, che insieme alla band da nove musicisti, diretta da Michael Kamen. E tutto è stato condensato, naturalmente, inserito in questo 24 Nights, doppio album live di Eric Clapton, uno dei tanti album oramai che ha fatto. E questo brano in particolare, appunto, Edge of Darkness, è stato registrato l'8 marzo del 1991. E le ultime due cose che ci ascolteremo in questo ricordo di oggi sono ancora una volta sul lato femminile. Siamo insieme nel primo caso a un personaggio che purtroppo ha avuto un sacco di problemi nella propria vita, primo di avere un padre assolutamente stronzo e secondo di avere conosciuto, di essersi fidanzata, di essersi innamorata di un ragazzo altrettanto stronzo, forse un tantinello di più. Sto parlando di Amy Winehouse, che ebbe la vita rovinata da questi due personaggi e che nel 2007 era in concerto per la BBC alla Porchester Hall di Londra. L'album, che si chiama At the BBC, è stato pubblicato in due versioni, una con CD più DVD e l'altra invece, che è quella che ho tra le mani, con tre CD, del quale l'ultimo appunto registrato l'8 marzo del 2007 alla Porchester Hall di Londra. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano sintomatico per quel che riguarda Amy Winehouse, si chiama Rehab e lei dice no, no, no, no. They try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go, go, go. Just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. Come tutte le volte che ascolto questo brano, ribadisco che forse sarebbe stato meglio avesse detto di sì alla riabilitazione. Rehab si chiama questo brano. Amy Winehouse era l'8 marzo del 2007 in quel di Londra, Porchester Hall. A concludere i ricordi today di oggi arriva un'altra ragazza che arriva da Edinburgh in Scotland, anche se in realtà lei è stata adottata da una famiglia di Edinburgh, di Edimburgo in Scozia, ed è di provenienza ignota, si direbbe. Comunque lei è una grande, grande cantante, un grande personaggio, si chiama Katie Tunstall. Ultimamente negli ultimi anni purtroppo ha avuto diversi problemi all'orecchio destro, e quindi ha dovuto diradare la propria attività musicale. Qui abbiamo una registrazione però del 2011 effettuata all'HMV Forum di Londra, e la vede in piena forma con questo che è forse il suo brano più famoso. Era l'8 marzo 2011. Katie Tunstall, il brano si chiama Black Horse and the Cherry Tree. Apart from that, she quite liked it. Woo-hoo! Il cavallo nero e l'albero di ciliegia, anzi, Black Horse and the Cherry Tree, il brano che ci siamo ascoltati. Lei si chiama K.T. Tunstall, K.T. Tunstall, ed è un'ottima cantante che, come dicevo in precedenza, però ha avuto qualche problema, ha tuttora purtroppo qualche problema di udito. Concludeva con questa registrazione dell'8 marzo 2011, Recorded Today di oggi. Mentre a concludere Città Fujiko Live Club, ci pensa la novità che vi ho proposto oggi, Tina Turner, la riproposizione del suo album che si chiama Break Every Rule, con annesso un concerto live registrato a Rio. Vi ricordo molto velocemente che vi siete ascoltati appunto Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Appuntamento mercoledì prossimo, vi lascio in compagnia di Tina Turner, che purtroppo dovrò tagliare clamorosamente, ma il tempo è tiranno e la pubblicità impera. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio, Tina Turner.